Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non eravamo certo una squadra di atleti, ma voi per l'impegno o per l'incoscienza superammo diverse prove. Una di queste consisteva nell'attraversare un rigagnolo utilizzando un ponte di corda, il famigerato ponte tibetano, steso alla considerevole altezza di 50 centimetri, non proprio su un orrido. Mi chiamo Pierluigi, sono sposato, non ho figli, abito a Solbiate Olona, un paesino in provincia di Varese, ho 57 anni. Di lavoro consiglio alla gente su come spendere i propri soldi, sono un consulente finanziario. Oggi, in questo bel venerdì che chiude questa settimana di gennaio, oggi mi rivolgo a tutte quelle persone che magari adesso in automobile o in ufficio, se state lavorando, hanno avuto nella loro esperienza di vita personale, ma soprattutto professionale, un'esperienza di team building. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, se non l'avevate capito. Io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Noi raccontiamo storie in mezz'ora, ogni giorno c'è una puntata che racconta di una persona, che racconta del suo episodio, quello che lui ha deciso di condividere, che ci ha scritto e ci ha inviato a voisietequi@radio24.it. E noi ne facciamo una puntata. Abbiamo letto oltre 10.000 storie, ne abbiamo raccontate al momento quasi 600, forse un po' di più, e continueremo a farlo fino a fine stagione, fino a luglio e poi chi lo sa, adesso parliamo di questo anno. La storia di oggi è quella di Pierluigi, che ci racconta, come avete sentito, un passaggio di un team building giovanissimo. Si parla di un team building di diversi anni fa, ancora non ho capito bene quale, dopo glielo chiedo, comunque non è una roba recente. Quindi se avete avuto esperienze di questo tipo, come immagino accada per chi lavora ormai da 20 anni a questa parte, soprattutto in grandi aziende, 349-238-6666 se avete un sms da mandare. Se avete invece un bello smartphone, abbiamo Facebook e Twitter, Voi siete qui Radio 24, Voi siete qui R24 il profilo Twitter, altrimenti il mio è semplicemente Matteo Caccia. Sergio scrive su Facebook: una volta mi sono dovuto arrampicare su un albero per recuperare il mio amministratore delegato appollaiato in cima, che quasi piangeva dalla paura. Cosa sarebbe il team building oggi raccontato da Fantozzi? Che cosa sarebbe Paolo Villaggio che racconta? In realtà poi ve lo facevano team building. Andiamo a fare il giro dei sette colli. Andiamo a Pinerolo. Ma sono 1200 chilometri. Andiamo, mangiamo e torniamo in nottata. Paolo, fatto un weekend di team building in barca a vela. Un mio collega ha vomitato tutto il tempo e ha quasi avuto un blocco renale. Scusa Paolo, per te il collega. Però, insomma, si parlava di Fantozzi. Dopo un anno l'azienda è stata venduta ai cinesi. Questo è, diciamo, a margine. Serena, ho dovuto camminare sui carboni ardenti mentre il mio capo ufficio si è rifiutato, adducendo come scusa un'unghia incarnita. Ed è con questa splendida immagine che cominciamo il racconto di Pierluigi. Immaginatevi di essere in un bosco e avere davanti a voi un ponte tibetano. Non ci eravamo troppo stupiti per quella convocazione. Se l'obiettivo era quello di costruire uno spirito di squadra, anche un fine settimana nei boschi poteva avere la sua ragione. Eravamo in 12, selezionati in quanto giovani promesse, o almeno questo è quello che credevamo noi. La mattina passò tra presentazioni, illustrazione del programma, consegna di attrezzature e abbigliamento. Dopodiché venne il momento di cominciare. Non eravamo certo una squadra di atleti, ma voi per l'impegno o per l'incoscienza superammo diverse prove. Una di queste consisteva nell'attraversare un rigagnolo utilizzando un ponte di corda, il famigerato ponte tibetano, steso alla considerevole altezza di 50 centimetri, insomma non proprio su un orrido. Fino a quel momento, e per la verità anche dopo, le prove avevano preso una piega fortemente competitiva, tutto si era creato tranne che uno spirito di squadra. Ma grazie alla competizione riuscimmo a superare anche quell'ostacolo. Certo, un purista avrebbe avuto da ridire circa lo stile e ha ragione, ma noi non eravamo lì per fare accademia. Lo superammo tutti. Tutti meno uno. Una di queste attività di formazione consisteva nel queste due giorni di sopravvivenza. Ci portavano in una villa che adesso è di proprietà di Berlusconi, il Villa Gernetto, lì vicino a Monza, dove c'è un grosso parco, e questo parco veniva utilizzato un po' per fare queste esperienze di gruppo, per cercare di creare questo spirito. Una di queste prove era il ponte tibetano, poi c'era il tiro con l'arco, c'erano delle prove in cucina, cioè c'erano delle cose create per farci lavorare insieme. Lui provò e riprovò, sbuffando, sudando, imprecando, anche barando. Niente da fare. Io rimasi lì a fare il tifo, forse più per stanchezza che per solidarietà, mentre gli altri proseguivano nelle prove. Un poco mi conquistò quella che considerai una inutile tenacia. Si sa che in Lombardia di ponti tibetani non è che ne incontri parecchi. Poi, annoiato, con un ultimo incitamento, lo lasciai e raggiunsi il gruppo che, anzi, dimostrò una certa felicità per il suo insuccesso. Era considerato una specie di avversario battuto. Seguirono altre prove. Venne sera, ci salutammo e ce ne tornammo ai nostri incarichi, con la promessa, ovviamente, di tenerci in contatto. Chiaramente, ci perdemmo di vista. Fu alla presentazione di uno di quei progetti che potrebbero cambiare i destini di un'azienda e che invece finiscono sempre nel bidone dei rifiuti, che rividi il cosiddetto tibetano. Era uno di quelli che contava e di certo aveva fatto molta più strada di me. Cercai di evitarlo, ero in imbarazzo, non sapevo se anche in lui fosse riaffiorato il ricordo, e invece no, fu lui a togliermi ogni dubbio, venendomi incontro con un sorriso e chiamandomi per nome. Rimasi allibito, per me lui era solo il tibetano, e invece si ricordava addirittura il mio nome. Tra l'invidia dei colleghi si soffermò a lungo a parlare con me. Quando ricordammo l'episodio del ponte, rimasi in silenzio, poi mi appoggiò una mano sulla spalla e avvicinandosi all'orecchio disse: «Non ti ho mai ringraziato per esserti fermato, ma quel ponte per me è stato importante. Ne ho incontrati altri nella carriera e nella vita. Quando li superi è facile, ma quello che mi ha insegnato è che si sopravvive agli insuccessi. Basta che sai di avere fatto al meglio delle tue possibilità, senza accampare ragioni o scuse». A me la cosa che ha colpito, la cosa che poi è rimasta impressa nel tempo, è che questo abbia saputo utilizzare un insuccesso per trarne una cosa positiva, cioè per capire i suoi limiti, dire: ok, io fin lì non ci arrivo, però ci ho tentato, non è che non ci arrivo e non faccio niente per superarmi. Da quel giorno ci siamo rivisti altre volte negli anni a seguire. Mi sono sinceramente rallegrato da lontano alle notizie dei suoi successi. Per me lui è rimasto il tibetano, anche se il nomignolo ormai aveva mutato il significato. Non abbiamo più parlato di quell'episodio, ma ho conservato in me tanto di quell'esperienza. E ancora me ne servo, e se nel giudicare gli altri e me stesso forse non sono così cialtrone e volgare come tanti altri, lo devo al prezioso regalo che quel giorno mi fece il tibetano. Did you ever wonder where the night spends all its days? Relaxing in the shadow, baby, or stretched out in the haze? Or does it travel to the void of outer space? Trying to make a fuss, slow, we can take our time. Not trying to make you rush, slow, we can take our time. Such a world to be walking in. Never making up my own line, making up my own line, oh. As long as we are moving at a steady pace, baby, we can take our time. Giampiero era un bambino che portava il busto alle elementari, perché aveva la scogliosi. Era cicciotto, pallido e con il mento prominente. Era sempre vestito con gli abiti fuori moda di suo fratello, di 7 anni più grande. I suoi genitori si erano trasferiti da Palermo a Genova una decina d'anni prima che lui nascesse. Era il terzo di 4 figli, Giampiero. Vivevano in un appartamento del CEP a Genova. Il CEP è un acronimo che sta per Centro di Edilizia Popolare. Per chi non lo sapesse, è una collina appena fuori Genova, dove hanno tirato su un quartiere dormitorio negli anni 60. Lo hanno riempito delle persone che venivano dal sud Italia e che salivano per lavorare all'Ansaldo o all'Italsider. Forza lavoro necessaria, ma da tenere lontana dagli occhi. Se non fosse per le curve a gomito e il mare là sotto a ricordarti che sei in Liguria, sembrerebbe di essere in una periferia sovietica. Crescere in un quartiere del genere ti espone un po' più degli altri a certi rischi e sua mamma, per scongiurare quei rischi, lo mandava all'oratorio. Giampiero inizia il suo cammino tra i neocatecumenali. Si innamora di una ragazza del gruppo e con lei vanno per strada a fare proselitismo. Per fare colpo su di lei, canta nel coro della chiesa. La sua maggiore aspirazione in quel periodo è fare la voce solista. Alle prove è bravissimo, ma poi durante la messa, la domenica mattina, per la tensione, perde la voce. Stecca, non si ricorda le parole. Gli viene da vomitare, addirittura. Insomma, ogni volta è un calvario, a cui però lui non si vuole sottrarre. A scuola ci impiega 8 anni per fare le superiori. Ha scelto il perito chimico, ma della chimica non gliene frega niente. Dopo la maturità, la strada che gli si apre davanti è quella di fare il concorso in polizia, come ha fatto suo fratello. Ma a scuola, all'ultimo anno, fa un corso di teatro e il maestro gli dà un bravo. Vuole provare a entrare nella scuola del teatro stabile di Genova. O fa l'attore o farà il poliziotto. Il giorno del provino si presenta in tuta da ginnastica e mocassini. Lo prendono. Festeggia con i neocatecumenali il buon esito del provino. Loro però gli voltano le spalle, facendolo sentire uno che ha tradito. Dopo appena un anno si fa convincere da alcuni suoi compagni ad andarsene dall'ambiente immobile della scuola del teatro stabile. Fra di loro c'è un piccoletto che ha una casa a Roma e lo può ospitare. Arriva a Roma ma non conosce nessuno, non sa fare un granché, non ha una lira e ha paura della città. Insieme al piccoletto però scrivono una pièce teatrale, un dramma sulla difficoltà che incontra la loro generazione a inserirsi nel mondo. Lo fanno così per ammassare il tempo. Scopre la scrittura, ma non ha il coraggio di dire che scrivere gli piace. Scrivere non rappresenta un mestiere per un perito chimico del CEP di Genova. Poi, visto che vogliono fare gli attori, lo fanno loro, la mettono in scena. Al debutto restano sgomenti. Quella che nelle loro intenzioni sarebbe dovuta essere una pièce drammatica ha un effetto comico straordinario sul pubblico. Lo spettacolo fa 5 anni di tournée, più di 200 repliche e vince parecchi premi. Da allora è passato qualche anno, ma Giampiero continua a bisticciare con la sua identità di autore ormai stimato e di attore sensibile. Ha imparato a convivere con quella specie di senso di inferiorità nei confronti di chi ha studiato di più, di chi ha vissuto in centro e di chi non ha un passato neocatecumenale. Questo lieve senso di disagio continua a portarselo dietro, non lo abbandona mai, è diventato il suo propellente, la sua risorsa segreta. Superare un fine settimana di prove nei boschi può essere divertente per creare un team di colleghi, ma le motivazioni che muovono le persone verso i propri obiettivi, quelle motivazioni che ci spingono a superare i nostri limiti, restano più segrete e meno scontate che attraversare un ponte tibetano. What? Beh, ma è una foto straordinaria quella che ci manda Pierluigi. Sembra un attore americano. A parte la pasta della foto, che è in bianco e nero, quasi leggermente seppiata. Lui non sta guardando in camera, guarda altrove. Ha degli occhiali più o meno rotondi, i capelli corti e ha davvero lo sguardo di un attore di cui non mi verrà mai il nome, ma secondo me tra poco lo trovo. Pronto Pierluigi? Sì, eccomi qui. Ciao, come stai? Benissimo, benissimo. Ti hanno mai detto che assomiglia a un attore? No, proprio un attore no, proprio quello. Adesso mi manca. Si vede che in quel momento il fotografo ha colto qualcosa che nessuno conosce. Chi era il fotografo? No, eravamo in un bar, in una... Ah, ok, quindi non è un fotografo professionista. Poi girava, sì, era uno che faceva foto così a caso. Ah. Con quelle che preferisco perché non ti metti in posa e ti prendono certo, in un certo, momento... Certo, non... Adesso ti dico anche a chi assomiglia, magari chi ascolta può andare a vedersi sul sito di Radio 24 se è vero. È l'attore protagonista degli reali Tim Robbins. Assomiglia a Tim Robbins in questa foto, guarda, quando lo becco, lo becco grazie a Google ovviamente, sono sempre contento. Allora Pierluigi, torniamo alla storia del tibetano, perché effettivamente è una storia abbastanza esemplare. Noi in questa puntata in realtà abbiamo utilizzato il tuo racconto per parlare di, insomma, per raccontare di una persona che conosco e per parlare di motivazione. In quel caso però è stata fondamentale, un po' perché la motivazione è una delle ragioni per cui si organizzano queste cose di team building, giusto? Cioè è facciamo una roba insieme e troviamo una motivazione. Allora era una grossa novità, adesso è diventata una cosa un po' più comune, ma allora era davvero innovativa. Quanti anni fa erano più o meno? Parliamo di 30 anni fa. Ah, quindi era proprio una roba che... Cioè, adesso immagino anche uno giovane che non l'ha mai fatto, fa una roba di team building e se l'aspetta. Invece, come veniva presa 30 anni fa dover camminare su un ponte tibetano? Eravamo tutti così gasati, eravamo tutti giovani, pensavamo di poter fare tanto, di far bene, essere selezionati in queste cose qui, ci dava l'idea che puntassero su di noi, sai, eravamo tutti abbastanza gasatelli. E lo dici perché poi non è stato così? Cioè, No, io non posso lamentarmi. Ah, ok, mi dici cosa? Sei rimasto nella stessa azienda, giusto? Sì, sono rimasto nella stessa azienda, anche se è l'azienda che è cambiata tanto, ecco. Cosa fai e cosa fate? Beh, io faccio il consulente okay. Finanziario, insegno agli altri come perdere i loro soldi, insomma. Come perdere? Speriamo che diciamo il tuo amministratore delegato non ti stia ascoltando. Dove sei adesso? Sei in ufficio, giusto? Sono in ufficio, sì. Quindi sono, tu hai un... Vedendo la giornata, sì. Tu hai un ufficio, hai un computer su cui scorrono numeri, io me lo immagino così, consulenti finanziari. Sì, ho un ufficio dove sono collegato con la borsa, dove scorrono numeri, grafici, cose del genere. Ogni tanto viene un cliente a trovarmi, organizziamo qualche incontro, discutiamo e... Parliamo di privati o di aziende, gruppi, fondi di investimento? In gergo tecnico si chiamano affluent, cioè sono i clienti privati che dispongono di un certo capitale. Ma perdonami, per un certo capitale parliamo, che so, più di 10 milioni? No, quelli sono i private, si chiamano private, quelli che hanno un capitale superiore ai 5 milioni sono clienti private. Okay, quindi noi abbiamo clienti che hanno da 500 mila euro anche, giusto? Sì. Cioè, e in cosa oggi in cosa faresti investire 500 mila euro? E oggi è davvero un momento complicatissimo perché abbiamo una situazione dove i prezzi sono altissimi e i rendimenti bassissimi. L'ipotesi migliore, il momento migliore per chi deve vendere, il peggiore per chi deve comprare. Ok, quindi però dimmi una roba, che so io, fondi... Qualcosa di molto corto per le obbligazioni, qualcosa invece di aggressivo, borsa europea o italiana. Cos'è aggressiva sulla borsa? Aggressivo borsa, quindi è borsa, no? Quindi equity, quindi azioni. Che meraviglia, non ci capisco niente, ma questi termini mi eccitano da morire. Una roba aggressiva sul mercato europeo, ve magniamo! E domani ci portiamo a casa 40 milioni di euro. Quanto è stato il guadagno più grosso e più veloce che hai prodotto per un tuo cliente? Cioè, in un giorno hai fatto... Mi ricordo di un cliente, non in un giorno, in due mesi, avevo guadagnato 200.000 euro, qualcosa del genere. Beh, era tanto tempo fa o era di recente? No, parliamo di 2 anni fa. Invece, visto che prima dicevi è cambiato moltissimo il lavoro, è cambiata l'azienda, in che modo è cambiato? Cioè, tu da lì, dal tuo osservatorio interno, che cosa e come? È cambiato nel senso che prima quando sono entrato io era più una cosa di famiglia, cioè sembrava di essere una famiglia, un club. C'era un ambiente davvero friendly, un ambiente amichevole, un ambiente che tendeva a creare appunto gruppo, un gruppo, un senso di appartenenza, ecco, senso di appartenenza è la parola esatta. Adesso invece non c'è più, ormai siamo molto individualisti, molto, ognuno ha il suo obiettivo da raggiungere, da fare, per cui non c'è quel senso lì di appartenenza che prima c'era. Tra l'altro proprio ieri è uscito questo film di Martin Scorsese che si chiama The Wolf of Wall Street, in cui c'è, io non l'ho ancora visto però vorrei vederlo magari stasera, in cui c'è, insomma, si raccontano di come vengono usati, sperperati, girati i soldi, come vengono fatti girare. Non è così, no? Voi avete una vita normale, avete un rapporto col denaro. Riesci a mantenere un rapporto col denaro sereno? Cioè riesci ad andare a fare la spesa? E... ti dirò che io curo poco i miei, essendo occupato tutto il giorno a curare gli affari degli altri, lo fai pensare a te. Onestamente il mio portafoglio è quello meno curato tra i clienti che conosco, perché poi alla fine quando arriva sera non hai più voglia di star lì a ributtarci la testa dentro, quindi cerchi di pensare ad altro, e allora ascolto il tuo programma, faccio altre cose, insomma. Pierluigi, l'ultima cosa e poi ti saluto, è un mestiere che consiglieresti il tuo oggi a un ragazzo che esce dalla Bocconi? Dico, la prima roba che mi viene in mente, la più facile. Guarda, io onestamente ho rifiutato diverse possibilità per continuare a fare questo lavoro. Quindi. Ok, quindi la risposta è sì. Pierluigi, ti ringrazio moltissimo, è sempre un piacere cercare di capire delle cose, anche se non le capisco, però sentire raccontare quantomeno. Grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, anche a te. Ciao. 349-238-6666. Chiudiamo con un messaggio, visto che parlavamo di motivazione, ma di team building, a dire la verità, con un messaggio di una persona che l'ha organizzato, mentre prima erano persone che li subivano, un po' come Pierluigi. Antonella, io sono un'imprenditrice. Ad aprile porterò tutti i miei collaboratori ad Amsterdam per un fine settimana. Ognuno farà quello che vuole, salvo incontrarci la sera del sabato per andare a vedere uno spettacolo teatrale che voglio che loro vedano. C'è un grande mistero in questo messaggio, Antonella. Ci piacerebbe capire che tipo di spettacolo è e a cosa serve. E quindi che tipo di lavoro fai e fanno i tuoi collaboratori. Inviacelo a voi siete qui, @radio24.it, così come inviate tutti i racconti se avete voglia di partecipare a questo programma. Se non avete voglia, ascoltatelo e scaricatevi i podcast. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Mauro Pescio. Grazie soprattutto a Pierluigi, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Mirko, vivo a Castel Bolognese in provincia di Ravenna. La storia di lunedì è la mia e parleremo di memoria. Questa è la mia storia e io sono qui.